Benvenuti a tutti, nuovo appuntamento con NBA Week, la trasmissione settimanale in podcast sulla stagione NBA 2017-2018 per Radio Big World. Finalmente ci siamo, stagione regolare finita e playoff alle porte. Stiamo occasionalmente registrando di giovedì sera, anche perché raramente tante posizioni nei ranking di conference e quindi di conseguenza negli incroci playoffs si sono decise così al photo finish. Iniziamo subito a descrivere le serie al primo turno con i nostri pronostici, pronostici di NBA Week, che inevitabilmente riguarderanno proprio il turno attuale. Ah, piccolissima postilla relativa agli infortuni. Come saprete benissimo, Boston non potrà disporre di Kyrie Irving per tutta la post-season e questo cambia notevolmente gli equilibri ad est, almeno sulla carta. In fase di rientro, invece, forse sarà anche già avvenuto al momento che ascolterete questo podcast, Joel Embiid con una Philadelphia informissima. Per quanto riguarda invece la Western Conference, occhio alle condizioni di Stephen Curry, che possono determinare anche gli equilibri di questo lato di America e della Lega. Jimmy Butler invece per Minnesota è già rientrato, decidendo tra l'altro con una super prova la sfida dell'ultima notte di stagione regolare tra i Timberwolves e i Denver Nuggets, un vero e proprio spareggio per l'accesso ai playoffs, vinto appunto da Karl Anthony Towns, Butler e compagni. Ma andiamo con ordine, partendo da Est e dalle serie, quindi della Eastern Conference. Toronto Raptors contro Washington Wizards. Nelle ultime 12 gare di stagione, solo 3 vittorie e 9 sconfitte per i maghi della capitale, praticamente in coincidenza, tra l'altro, con il rientro di quel John Wall del quale tanto si è parlato in materia di equilibri di squadra e non in positivo. Toronto invece chiude la stagione regolare con il miglior record di conference e la speranza di superare da subito un primo turno che appare per la verità piuttosto agile sulla carta, proprio in virtù dello stato di forma attuale di Bradley Beal e compagni, dimostrato infatti dal record finale sopracitato. Occhio però a dar per vittime facile Wizards, soprattutto vincere in casa loro non sarà assolutamente facile. La prova vera per i Toronto Raptors si troverà presumibilmente al secondo turno, dove vedremo se questa stagione sarà diversa dalle altre oppure se DeRozan e compagni saranno destinati a concludere ancora una volta una regular season da leoni e una serie, o quantomeno le serie playoff, come delusione, perché qui in Toscana si dice la sera leoni, la mattina coglioni, quindi la potremmo rimettere anche in questa maniera: una regular season da leoni e una post season da coglioni. Ci auguriamo per i Raptors che quest'anno non sia così. Io comunque, relativamente a questa serie, pronostico il loro passaggio del turno, magari proprio a voler esagerare, per 4-1. Cleveland Cavaliers contro Indiana Pacers. Indiana è stata squadra sorprendente nella stagione regolare e in particolare nella Eastern Conference, malgrado la perdita estiva di Paul George, che è stata perfettamente tampinata con forze freschissime, con l'esplosione di Victor Oladipo e con segreti molto poco nascosti oramai, come ad esempio Domantas Sabonis. È squadra che ad inizio anno forse si poteva prevedere di non ritrovare tra le prime 8. Cleveland è invece la squadra del re LeBron James, che aspetta questo momento della stagione fin dal training camp probabilmente. Un giocatore che ha rivoluzionato praticamente lui l'organico della sua squadra a metà stagione per correggere un ambiente ed una struttura che poco evidentemente lo soddisfaceva. Io personalmente vedo i Cavaliers favoriti ancora una volta per la finale, con un James che probabilmente merita anche il premio di MVP, malgrado quello che ho pronosticato al riguardo nelle settimane precedenti, ma io non riesco mai a decidermi e poi è tantissimo l'amore che provo per questo giocatore che in questo momento è veramente uno dei più devastanti di sempre, a mio avviso sicuramente della decade in corso. Questo anche perché sarà capacissimo, secondo me, di trascinare i suoi da solo quantomeno per questo primo turno, secondo me prevedibilmente almeno fino alle Conference Finals. Dispiace quindi per i Pacers, ma io pronostico i Cavaliers facili con un 4-0, anche qui diamogli un 4-1, comunque passaggio del turno facile per LeBron e compagni. Philadelphia 76ers contro Miami Heat. Stagione sorprendente anche per Miami, con un super Goran Dragic in regia e con il rientro a metà stagione del figlio prodigo Dwayne Wade. Di fronte però la squadra più in forma della Lega, che ha chiuso la regular season con 16 vittorie consecutive, con un Ben Simmons in crescita esponenziale partita dopo partita ed un contorno stratosferico dove spicca un Marco Bellinelli che ha raggiunto la maturità adatta per essere veterano di impatto decisivo nei parziali che determinano una vittoria. Io vedo i Sixers proiettati direttamente verso la finale di conference in una stagione storica che sarà d'antipasto per un ciclo futuro ai vertici della conference e della Lega. In più, se considerate che rientrerà anche Joel Embiid, sulla carta, a mio avviso, in questa serie di primo turno non c'è storia. L'inesperienza potrebbe forse giocare qualche brutto scherzo, ma il mio pronostico va comunque con Simmons, Embiid, Fultz, Bellinelli, Covington, Redick e Saric, tanto per citarne alcuni. Boston Celtics contro Milwaukee Bucks. Ecco la serie più interessante nel primo turno ad est, secondo me, e lo sarebbe stata anche se Boston avesse potuto contare sul suo leader Kyrie Irving, che, come saprete, siederà probabilmente accanto all'altro grande acquisto d'inizio stagione, Gordon Hayward, a guardarsi le sfide in borghese. Peccato davvero, perché la stagione di Boston è stata comunque un capolavoro di coach Stevens e le prestazioni di Rozier, Brown e Tatum, tanto per citarne tre, sono lì a dimostrarlo. Con quei due tutto l'anno avrebbero potuto tranquillamente puntare alle finals e lo faranno indubbiamente la prossima stagione. Adesso però si trovano davanti la squadra di Giannis Antetokounmpo, determinata a sperimentare quantomeno cosa significhi un secondo turno di playoff, con un organico giovanissimo che può dare davvero profonde soddisfazioni, quantomeno in futuro, ma già adesso. Come finirà questa serie, quindi? Io dico non meno di 6 o 7 partite. Deciderà probabilmente il vantaggio campo e quel pizzico di esperienza in più, quindi ad esempio giocatori come Al Horford, una delle chiocce per i meno esperti dei Celtics per tutta la stagione. Alla fine io vado con Boston in 7 faticosissime partite, probabilmente saranno destinati a schiantarsi in seguito però contro, secondo me, Simmons e Embiid. Passiamo adesso al cartellone della Western Conference. Qui tutte le posizioni, a parte le prime due, si sono decise nelle ultimissime ore di regular season, decretando vani gli sforzi di una Denver che ha provato fino all'ultimo l'aggancio. Con un'ultima prestazione, tra l'altro, da 19 assist e 20 rimbalzi di Russell Westbrook, che ha raggiunto per il secondo anno consecutivo i numeri sufficienti per chiudere con una tripla doppia di media, coincidendo tra l'altro con la terza vittoria consecutiva dei suoi Thunders e riacciuffando così il quarto posto in classifica. Meglio di così non poteva andare per Oklahoma City, che comunque vede il loro leader ancora una volta sotto i riflettori più critici, soprattutto da parte di chi ne sottolinea l'ossessione nel raggiungimento della statistica a sacrificio del resto. Io credo che Westbrook o si ama o si odia, c'è poco da fare, ed ammetto di amarlo come pochi altri giocatori in circolazione. Vediamo che tipo di post-season può regalarci e possono regalarci Thunder, perché quei Big 3 avrebbero da riscattare diverse cose che in stagione non sono andate secondo le aspettative iniziali. Ma anche qui andiamo con ordine. Houston Rockets contro Minnesota Timberwolves. Houston è al momento favoritissima per la vittoria finale, c'è poco da dire. Minnesota invece ha vissuto una involuzione tremenda nella seconda parte di stagione, complice anche l'assenza di Butler, ma soprattutto una serie di insufficienze difensive mai risolte. L'attacco più devastante della Lega, quindi, contro una delle difese a tratti più deprimenti. Chiaramente vado con il mio pronostico con i Rockets di Mike D'Antoni. Oklahoma City Thunders contro Utah Jazz. Che capolavoro la stagione regolare di Utah, una squadra che si pensava destinata ai bassi fondi, che scopre nel rookie Donovan Mitchell un leader già sufficientemente pronto per condurre i compagni, accompagnato da un rinato Ricky Rubio, dal solito Rudy Gobert e da una serie di onestissimi comprimari di alto livello qualitativo. Sui Thunders abbiamo parlato ampiamente anche in precedenza. Qualche puntata fa li ho definiti comunque la delusione della stagione. Sono riusciti a conquistare il vantaggio campo al primo turno e questo vorrà dire tanto in questa serie, anche perché i Jazz di esperienza in questi palcoscenici ne hanno decisamente meno. Faticheranno perché sono comunque squadra profondamente bipolare, legata alle percentuali e alle forzature delle proprie superstars, ma alla fine secondo me riusciranno a spuntarla e Westbrook proverà ad avere la sua rivincita su Houston, il che non sarà assolutamente salutare a livello di dispendio energetico per Harden e compagni in vista della finale. Sto ovviamente prevedendo quello che sarà l'incrocio del secondo turno relativo appunto a Oklahoma e Houston. Portland Trail Blazers contro New Orleans Pelicans. Incrocio sicuro sicuramente interessante. Se i Blazers si confermano la squadra che ha giocato la strepitosa seconda parte di stagione, passano secondo me facilmente, anche perché Damian Lillard è in piena elevazione mistica, come gli capita da sempre, e progressivamente al raggiungimento di questa fase. New Orleans è però squadra strana, orfana di uno dei suoi top player come ben sappiamo, capace però di poter dire ampiamente la sua, con uno dei primi 5 giocatori della Lega almeno potenzialmente che risponde al nome di Anthony Davis. Probabilmente potrebbe non essere semplice, il vantaggio campo non necessariamente sarà decisivo considerando tra l'altro lo scarso seguito in quel di New Orleans, destinato secondo me comunque a risvegliarsi per le due gare casalinghe previste almeno. Io personalmente vado con Portland, anche se l'upset può starci. Golden State Warriors contro San Antonio Spurs. Qui invece ci sono alcuni fattori che l'upset potrebbero ampiamente giustificarlo in previsione. Per prima cosa, l'argomento di strettissima attualità riguarda il destino di Stephen Curry. Giocherà questa serie? Riuscirà a rientrare? E se sì, in che condizioni? Perché abbiamo visto una Golden State totalmente spaesata senza di lui. Una squadra che ha mutato il proprio gioco in una forma non esattamente efficace né tanto bella da vedere, seppur scoprendo un clamoroso Quinn Cook come sostituto del già citato Steph. Restano sempre la squadra con Kevin Durant e Klay Thompson tra gli altri, ma i segnali scricchiolanti di una stagione conclusa malino, anziché no, lasciano qualche piccolo dubbio. Dall'altra parte invece, una squadra di sicura esperienza, priva, è vero, della sua guida, almeno sulla carta, almeno ovviamente che non succedano incredibili e clamorosi miracoli, e mi sto riferendo a Kawhi Leonard, ma comunque con una serie di vecchietti che possono e vogliono giocare uno sgambetto storico che saprebbe di ultimissima vendetta. Ci sono Tony Parker, Paul Gasol e Manu Ginobili, tanto per dirne tre. C'è un LaMarcus Aldridge che non è tanto vecchietto in realtà, ma che è reduce da una stagione strepitosa, totem di una struttura di gioco meno liata degli anni precedenti, ma comunque guidata in panchina sempre da una leggenda come Greg Popovich. Che dire quindi? Serie bellissima che Golden State può vincere agilmente o complicarsi notevolmente. Tutto dipende dal loro approccio, dalla capacità di cambiare marcia rispetto alle ultime prestazioni, magari ritrovando il proprio leader in campo. Occhio alle prime due gare nella baia, perché se gli Spurs fanno un miracolo, l'inerzia può decisamente cambiare rispetto ai record stagionali riportati, soprattutto per una questione di fiducia mentale. Io vado comunque con i Warriors, perché nonostante tutto restano i campioni in carica, ma potrebbero volerci più di 5 partite, chissà, forse anche 7. Benissimo, giungiamo a conclusione anche di questa puntata del nostro podcast, che continuerà settimanalmente a seguire le evoluzioni del momento più caldo ed interessante della stagione fino alla galoppata finale verso il titolo NBA. L'appuntamento con i primi risultati dei playoffs NBA 2018 è al solito rinnovato per la prossima settimana. Per aggiornamenti eventuali seguiteci sulla nostra pagina Facebook che si chiama NBA Week. Per ascoltarci gli appuntamenti non cambiano: tutti venerdì sera sul flusso streaming di Radio Big World, tutti sabati mattina sul canale YouTube di Belli 13, tutte le domeniche pomeriggio alle 18 in streaming su Radio Valdarno. Grazie per l'ascolto, ci risentiamo tra 7 giorni con NBA Week e i playoffs NBA.